perse i sensi. E tu mi lasci? Io vado. Pensa, madre stella, che dirà mai quando si tornerà? Tutte ho presenti, tutte le smanie sue. Lì ce l'ho.